Va ora in onda Note, a cura di Giacomo Sapienza. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di CRM Happy Radio, nuovo appuntamento con la trasmissione Note. Ritorna in studio ed è un gradito ritorno Salvatore Marsala, editore cefaludese. In studio c'è anche il suo fotografo ufficiale Nunzio Turdo, che magari poi ci dirà qualcosa sulle prossime iniziative, e sono davvero importanti a quanto ci anticipava. In regia c'è Sante Genovese e l'editore Angelo Arduino, che si è ripreso totalmente dalla lunga trasferta milanese alla BIT, ed è proprio di BIT che vogliamo subito parlare con Salvatore Marsala. Ecco, innanzitutto una prima impressione sulla BIT 2013, tu la segui ormai da anni, come hai trovato l'ambiente, prima di entrare nei dettagli sulle nostre attività? Ma guarda, intanto un saluto a tutti i radioascoltatori. Io quest'anno alla BIT ho visto veramente molta negatività. La negatività è stato l'assenteismo di tanti stand che lo scorso anno c'erano, e questo non perché la BIT non conta, perché purtroppo, ahimè, i costi alla Borsa del Turismo di Milano sono troppo esosi, e quest'anno molti non hanno avuto la possibilità economica di avere uno stand e di quindi promuovere la propria città, il proprio prodotto e tutto ciò che va promosso. Marsala, oltre alla BIT, ha frequentato quest'anno, l'anno scorso, altre fiere del turismo? Sono in programmazione altre fiere del turismo. Io sono sempre stato alla Borsa del Turismo di Milano perché le mie possibilità economiche non sono tale da poter frequentare altre fiere, e il mio supporto, i miei sponsor sono molto limitati, e quindi mi devo adeguare al mio budget economico. Quest'anno sto programmando insieme ai miei collaboratori fiere estere. Sono stato all'ENIT, Ente Nazionale del Turismo Italiano, la massima espressione riconosciuta dal Ministero. Ho parlato col direttore generale e abbiamo un colloquio iniziato dove loro vanno in tutte le fiere, Germania, Russia, Cina, e aggregandomi a loro, associandomi a loro, posso girare tutte queste fiere e automaticamente promuovere ciò che io voglio promuovere. La fiera è senza dubbio occasione di contatto diretto tra tour operators e l'utenza, ma ci sono nuove forme di comunicazione oggi, e internet è il principale veicolo di pubblicità. Ecco, in questo senso le edizioni Marsala si stanno muovendo, c'è qualcosa anche dal punto di vista telematico? Sì, tu hai detto una cosa giusta, ci sono nuove vie di comunicazione, però sai, le fiere sono sempre strapiene di persone e il contatto diretto, il contatto umano è sempre bello. Io ho notato un'altra cosa molto importante, perché io quando vado nelle fiere giro tutti gli stand. Ancora non vedo né iPad né altre forme di comunicazione negli stand, vedo solo carta, sia perché è un veicolo molto più veloce nel dare durante le fiere, e purtroppo, ahimè, devo dire che è solo, cioè la gente richiede solo quello. Certo, è importante oggi l'era internet, è importante oggi l'era iPad, applicazioni, è importante tutto ciò che è multimediale, però dobbiamo adeguarci sempre alle nostre possibilità economiche e a ciò che vogliamo propagandare. Io ho un progetto, lo porto avanti da 6 mesi. Il progetto è S'accomodasse. Welcome, sì, magari di questo ne parliamo dopo. Con la prossima domanda. Intanto ricordo agli ascoltatori che possono collegarsi su internet al sito CRM Happy Radio e osservare, guardare il streaming oltre il nostro studio, le immagini che in questo momento sono proposte dalla regia, e vediamo appunto l'editore Marsala e la nostra inviata Cristina, che ha fatto da intervistatrice, speaker, è davvero eccezionale. La salutiamo, che probabilmente sarà in ascolto. Ma ringraziamo ancora una volta il nostro editore Angelo Arduino, che è stato veramente un vero protagonista. Ecco, come hai visto Arduino in questi giorni alla fiera? Ma guarda, Arduino secondo me merita veramente tanto. È stato, diciamo, dalla mattina quando arriviamo alle 9:30 fino alle 18 quando si chiudeva, attento anche perché ci sono stati problemi di collegamento, e lui a studiare e ristudiare finché poi otteneva ciò che voleva, cioè il collegamento, perché quest'anno purtroppo la fiera... Immagine in streaming con il sindaco di Cefalù, Rosario La Punta, il sindaco di Gratteri Giuseppe Muffoletto, poi vediamo la nostra collaboratrice e consulente al turismo Agnola Macaluso, vediamo il consigliere Garbo degli imprenditori, vediamo naturalmente anche te, ma guardando anche il tavolo dove siamo seduti in questo momento noto dei libri, noto soprattutto un libro che mi incuriosisce, Cefalù fuori le mura, è un vecchio libro, come mai è con te? Ne volevo parlare per ultimo, però ne parliamo per primo. Io praticamente, come ho detto, a Milano sto lavorando su un prodotto editoriale di Cefalù. Io ho avuto la liberatoria proprio 15 giorni fa dalla famiglia Vazzana, va bene, che mi autorizzano a riprodurre questo libro che non ritenuto sia dal professore Portera, sia da Nico Marino, sia dal professore Saì e da altri, veramente un'icona, un libro importante che parla di Cefalù in maniera veramente esaustiva, in maniera veramente molto bene, e io sono onorato di questo e riuscirò a far fuori un libro, a portare fuori un libro che veramente possa ancora una volta parlare di Cefalù con la penna del professore Steno Vazzana. Veramente un capolavoro della letteratura e della storiografia cefaludese. Ovviamente sarà corredato da foto fatte ovviamente dal mio fotografo personale che è qui da Nunzio Turdo, insomma voglio tirar fuori un altro bellissimo libro per documentare ancora una volta la mia città. Sì, senz'altro. Ecco, tu ti proponi sempre nella tua attività di propagandare la tua città, come osi definire tu. All'inizio avevi accennato di un grande progetto, magari ne parliamo dopo aver dato la linea alla regia. Va bene. E siamo ritornati in studio. Allora, Salvatore, parlavamo di questo progetto S'accomodasse, andiamo in ordine, vedo sempre sul tavolo un numero uno, un numero zero, anzi come si dice in editoria, un numero zero con una bellissima foto della cattedrale in copertina. Di cosa si tratta? Allora, è il mio progetto, il progetto per cui io sono andato a Milano, l'ho presentato nei vari stand dove avevo un interesse per la Sicilia, l'ho presentato all'ENIT, Ente Nazionale per il Turismo, è un progetto a cui tengo tanto. Che cos'è S'accomodasse? S'accomodasse è una rivista che parlerà di turismo, arte e cultura e quant'altro, ovviamente parlerà sempre e comunque della mia città di Cefalù, parlerà delle Madonie e faremo anche dei servizi che riguardano altre città della Sicilia, perché sono fermamente convinto che una rivista con solo Cefalù e Madonie è difficile da mettere sul mercato e essere guardata, ma se io quando parlo di Cefalù e Madonie inserisco Palermo o Taormina, verrà, ovviamente la rivista ha un gettito maggiore, perché sono insomma quelle città cui hanno un interesse oggi di più rispetto alla mia città. E ovviamente cercherò di non sarà solo la rivista, perché ci sarà anche un sito internet, la rivista sarà anche un'applicazione sia per Apple e per Android, e ci sarà anche una web TV, perché noi faremo anche dei servizi documentari per documentare appunto il prodotto che verrà pubblicizzato nella nostra rivista. Che dire, è un progetto cui ci lavoro da parecchio tempo. Io penso che possa andare avanti, possa crescere giorno dopo giorno, anche perché la rivista sarà in multilingue, ma non metà inglese e metà italiano. Ci sarà la rivista in italiano, in inglese, in russo, in giapponese, l'inglese, in USA, il Regno Unito. Insomma, cercherò di ogni rivista, ovviamente se devo andare in fiera in America la traduco in inglese, insomma. Quindi cercherò di sfruttare quel momento, va bene, e tradurla per l'interesse che in quel momento io ho bisogno. Condividiamo l'idea senz'altro, che bisogna mettere in rete la città e non presentare un prodotto con una città isolata, ma non avrebbe mercato. Ma la BIT proprio ci insegna che si va avanti con itinerari. Esatto. Magari di questo poi, a proposito di itinerari, ritorniamo dopo. Poi ne parliamo dopo, va bene, ok. Diciamo che, attenzione, è una rivista a cui io voglio coinvolgere in primo su tutte le Madonie, perché è un territorio di cui io sono innamorato, cioè Cefalù e le Madonie, sia perché nelle Madonie io ci ho vissuto 13 anni lavorando in un albergo di mio suocero Mimmo Mogauro, quindi un'esperienza alberghiera credo di averla pure. Ovviamente lo sport è la mia materia, il tempo libero la stessa cosa, l'editoria turistica da 30 anni la faccio e quindi penso di avere in serbo un bagaglio culturale per quanto riguarda questa materia che non sono secondo a nessuno, un poco di protagonismo permettetemelo. Ma confermiamo anche noi. Grazie. Intanto continuo sempre a scorrere in streaming le immagini della BIT di Milano e vediamo il nostro stand affollatissimo. Ecco, bravo, hai detto una cosa bene, è bella. Vediamo il nostro stand affollatissimo. E magari qualcuno diceva: ah, ma questo è uno documento, questo è un documentario che dimostra come il nostro stand rispetto ai due che avevamo vicine, che era uno delle isole Eolie e Lampedusa e l'altro Marsala, c'era pure lo stand di Marsala, il nostro era sempre super visitato. Significa che i prodotti che noi davamo, va bene, attirava la gente, che poi era il fine mio finale. Che prodotti avevamo a proposito? Allora, noi intanto, come si vede, c'erano 10 manifesti, che è un progetto di sempre di Saccomodasse, vi spiego, questi 10 manifesti con foto fatte dall'amico Nunzio, sponsorizzate da alcun operatore di Cefalù, sono stati esposti nelle pareti del nostro stand, poi saranno esposti ora a Cefalù e poi faremo una campagna affissionistica quest'estate dove scorreranno queste immagini, e la campagna affissionistica sarà fatta in 2-3 comuni che sceglierò, Taormina, Palermo, poi si vedrà questo, dove io voglio continuare a propagandare le nostre la nostra bellissima città, perché io vorrei dire a qualcuno che in questi giorni ha un po' polemizzato sul fatto che dovevamo essere preparati a vendere pacchetti turistici, ha ragione, attenzione, che dovevamo essere pronti a dare una documentazione degli albergatori e dei loro pacchetti, e io rispondo in una maniera, attenzione, ripeto, hanno ragione, ma io rispondo: io non vendo pacchetti turistici, io vendo pubblicità, io vendo immagine, quindi i pacchetti turistici li devono vendere loro, avevano uno stand a disposizione, potevano venire e vendere i loro pacchetti, qualcuno l'ha fatto di albergatore, più di uno, e questo qualcuno è venuto, infatti Angelo me lo conferma, qualcuno è venuto, ma parliamo su 40-50 strutture turistiche, io ne ho viste solamente 5-6 e vi posso garantire che in un certo senso i contatti li hanno avuti. Allora, io ho visitato lo stand delle Marche, lo stand del Friuli Venezia Giulia, bene, che li ho reputati lo stand della Calabria, ebbene lì c'era solo propaganda di immagini, cioè loro pubblicizzavano solo e esclusivamente il loro luogo, non vendevano pacchetti turistici, i pacchetti turistici li vendevano sopra ai tour operator, chi era interessato a farlo, bene? Quindi ripeto, io non vendo pacchetti turistici, io vendo immagini, io faccio pubblicità. Non è mio compito vendere i pacchetti turistici, e rispondo a qualcuno che su Cefalù News ha detto questo. Attenzione, ha ragione, io torto non ne do. Però se invece di polemizzare, è giusto, ci prepariamo e ci prepariamo tutti uniti, ognuno per la sua materia, gli albergatori la sua materia, il ristoratore la sua materia, il pubblicitario la sua materia, tutte queste polemiche si potrebbero annullare. Il vero problema è proprio questo, che non si riesce a Cefalù a sedersi dietro un tavolo ed a organizzare tutti insieme quello che Cefalù ha bisogno. E restiamo in tema di collaborazione, permetteteci salutare l'associazione Costanza d'Altavilla e Zefiro presente alla manifestazione, c'era l'architetto Valerio Piazza e la sua infaticabile collaboratrice Maria Rosaria Barranco che si sono veramente adoperate per la riuscita della manifestazione alla BIT, ma anche per il carnevale, il Natale, l'estate e anche l'altra associazione Zefiro, oltretutto c'era presente anche la nostra inviata Cristina, che è stata davvero eccezionale, lo ripeto, anche perché li stiamo vedendo naturalmente in streaming accanto a te, assieme al consigliere Garbo, che è anche un esponente politico di primissimo piano nella nostra città. Ecco, guardando queste immagini con i poster di sfondo, con le foto realizzate da Nunzio Turdo, ma anche la rivista Corso Ruggero, ecco, come sta andando questa rivista? Ma guarda, questa rivista Corso Ruggero, che è un monografico, io ho stampato una certa tiratura. Purtroppo, ahimè, Cefalù è un paese con un certo numero di abitanti, quindi la tiratura che ho fatto è stata magari un poco esosa, però io la faccio. La rivista è andata bene. E io ho avuto il coraggio, una rivista che costa 15 euro, va bene, e ci valgono tutti questi 15 euro, non detto da me, detto anche da gente che è venuta nel mio studio e che lavora alla Mondadori, ok? Io ho avuto il coraggio di regalarla alla Borsa del Turismo di Milano, e non una copia, va bene, più di 1000 copie. Ho regalato anche stampe di Cefalù che sono andate a ruba. Cartoline, segnalibro, di tutto e di più che riguardava l'immagine di Cefalù. Io ho avuto il coraggio di fare ciò e lo rifarò di nuovo, perché io amo la mia città. Le polemiche non amano certo la nostra città. Con queste parole penso che sia il caso di dare un attimo la linea alla regia per uno stacco musicale, e magari ci sentiamo tra qualche istante. Giusto. E però lo devi dire. Isole e navi che portano ancora con sé uomini simili a me. Io penso a te. Acqua qui, e credimi, ne hai visti specchi oramai, ma non di certo così si vede l'anima. E quella cena, lume di candela, con le tue labbra che sembravano di cera, è pur stata un'emozione o no? Every day, everyone inside that you find. Rientriamo in studio dopo il doveroso stacco con i messaggi elettorali, ci avviciniamo ormai, mancano poche ore davvero all'appuntamento più importante per la nostra Repubblica, le elezioni del nuovo Parlamento, Camera e Senato, quindi è doveroso per noi trasmettere i messaggi elettorali, ma anche la pubblicità. E a proposito di pubblicità, siamo sempre con l'editore Salvatore Marsala. Ecco, come bisogna pubblicizzare la nostra città? Cosa proponi tu? Ma guarda, dalla mia trentennale esperienza dico questo. Cefalù ha bisogno di tanta pubblicità. La pubblicità però si deve fare fuori Cefalù. Negli aeroporti, nei poster, a Milano e anche con la BIT, e anche con la Fiera di Rimini, anche con la fiera, con le fiere estere. Purtroppo il budget pubblicitario cefaludese è molto limitato, però devo dire che a volte è molto sprecato. Quindi io dico sempre, quando fate un investimento pubblicitario, guardate il ritorno che può avere sia per l'immagine di Cefalù sia per il prodotto vostro cui andate a pubblicizzare. Ci sono tanti che a Cefalù girano alla ricerca disperata di sponsor, dalle associazioni sportive, dalle associazioni no profit. Quest'anno anche il comune di Cefalù si è messo a girare sponsor. Poi nel momento in cui si deve organizzare, ecco, una grande manifestazione, qual è la BIT o un'altra fiera, mancano i fondi. E lì succede praticamente il danno. Cioè che quello che non possiamo pubblicizzare, Cefalù, per come deve essere veramente pubblicizzata. perché ricordiamoci una cosa importante: il cliente, quando il cliente deve arrivare a Cefalù, per arrivare a Cefalù il cliente deve sapere, e per sapere, va bene, bisogna inviare il messaggio o via internet o via applicazione o via riviste o anche con la presenza. Io parlo della BIT perché l'abbiamo fatto una settimana fa. Ovviamente il ritorno pubblicitario non è imminente. Quest'anno sono passati tanti giovani e io ho detto a chi lavorava nello stand: forziamo il messaggio verso questi giovani, perché sono quelli che non conoscono Cefalù. La prova ne sia che avevamo un block notice dove scrivevano dei post e molti non conoscevano Cefalù. Quindi quando io dico che Cefalù non è ben pubblicizzata fuori, poi ho ragione. Sicuramente un discorso lunghissimo, sappiamo che i giovani cercano la vacanza del divertimento e non è facile. Ma Cefalù, lo so, non è facile, però Cefalù ha tutti i potenziali per organizzare una vacanza divertimento, perché abbiamo il mare, abbiamo tanti locali notturni, abbiamo tante belle strade cui passeggiare il pomeriggio, abbiamo tanti bei monumenti e abbiamo anche delle manifestazioni che, se un pochettino vengono rivalutate, organizzate in maniera, non dico diversa, ma potenziarli, va bene, secondo me Cefalù può avere tutto ciò che un turista di qualunque età vuole. Sicuramente. Salvatore, Totò. Abbiamo anche due impianti sportivi formidabili che però non permettono al momento di svolgere spettacoli. Per esempio lo stadio Santa Barbara, una volta non impossibile da utilizzare per gli spettacoli perché c'era il Manderbos, e noi non siamo come a San Siro che possiamo permetterci un ricambio del Manderbos in pochissimi minuti, certo. Addirittura come fanno loro, o in poche ore. Adesso il Manderbos non c'è più, però c'è Santa Barbara. Abbiamo poi il palazzetto di Ogliastrillo, 4.000 posti, ecco, è pensabile al momento, e questa volta tu hai competenze anche in questo, anzi hai competenze anche in questo settore, dato che sei il presidente di una società sportiva che ha oltretutto un suo piccolo palazzetto. Ecco, sfruttare anche gli impianti sportivi per lo spettacolo e per l'estate, ma anche per portare sport d'estate per i giovani. Hai toccato un punto, questo è un pugnale nel mio cuore, però dietro le spalle. E noi abbiamo due impianti sportivi, uno, come dici tu, il Santa Barbara e il Palasport, che sono veramente inutilizzati, hanno un potenziale veramente tanto, organizzare gli spettacoli, organizzare grandi manifestazioni che attirano tante persone. Però poi siamo là. Per piccole cose burocratiche, perché qua a Cefalù ormai la burocrazia, se io vado in tutta Italia, la burocrazia che c'è a Cefalù per avere un'autorizzazione è veramente una tragedia. Ovviamente io penso che ognuno prima di firmare ci deve pensare tante volte, però io non capisco perché abbiamo questa burocrazia così lenta. Noi abbiamo un Santa Barbara che potrebbe organizzare veramente tanti concerti durante l'estate e quindi attirare giovani. Abbiamo il Palasport, diciamo che il Palasport della provincia è nel nostro territorio, perché noi abbiamo dato il terreno, ed è un Palasport che si utilizza per poche cose. Poi quando ci sono grandi manifestazioni, vede il Barcellona di Serie A che è venuto qui, il palazzetto si riempie. Che dire, io non dico che non c'è volontà politica. Io dico che forse, voglio dire che non ci sono dei progetti adeguati da presentare alla comunità e quindi avere questi finanziamenti, sia per fare il Manterboso, sia per fare il Santa Barbara. Non lo so e non lo voglio sapere. Dico semplicemente che se vogliamo veramente lavorare, Cefalù ha tante potenzialità, ma anche l'Antinnamari stesso, che è una bella manifestazione. Però non lo so. C'è troppa apatia, c'è troppa invidia e c'è troppa critica. Io dico una cosa, io una volta al professore Portera ho fatto una domanda, ho detto: professore, ma chi è il cefaludese? Dice: Totò, il cefaludese è quello che sta seduto su una sedia, vede fare e con molta lentezza dice: ma che cosa sta facendo? Mentre lui sta seduto a non far niente. E la stessa domanda l'ho posta al professor La Grua, e il professor La Grua mi ha risposto nella stessa maniera. Allora io dico questo: io ho parlato con alcuni giovani che sono venuti allo stand di Cefalù, che hanno tanta voglia di lavorare per questa città, hanno tanta voglia per progredire, hanno tanta voglia di crescere. E allora io ho fatto una proposta: riuniamoci, chi ha voglia veramente di lavorare per Cefalù, lavoriamo; chi non ha voglia di lavorare per Cefalù, che si metta da parte, se ne va a mare, si goda lo spettacolo, faccia quello che vuole, però Cefalù è stanca di critiche. Le critiche devono essere costruttive, non distruttive. A me non me ne frega niente, perché io non ho mai chiesto niente a nessuno e mai chiederò niente a nessuno, va bene? Però Cefalù è stanca di critiche. Chi crede che criticando si metta in mostra, io dico questo: invece di criticare per mettersi in mostra, mettete in mostra lavorando per la città, e sta tranquillo che sarà in mostra per ciò che vuoi. Ecco, lasciamo i nostri ascoltatori meditare su queste tue parole. Totò Marsala, anche presidente della Zannella Basket, la squadra che sta dominando il campionato di Serie C regionale, anche se viene una sconfitta, influente per la classifica, anche se ha visto avvicinare la seconda in classifica, quasi a ridosso della vostra posizione, però siete i primi, siete i dominatori assoluti di questo campionato, almeno fino a questo momento, e domenica avete l'esame di prova per vedere se quanto si dice in giro è vero, perché arriva il Grid Basket, che è considerato nelle squadre giovani, proprio green, davvero una squadra che può mettere in difficoltà chiunque. Ecco, ma guarda, parliamo di sport, adesso poi ritorniamo nuovamente al turismo. Ma guarda che io lo sport l'ho sempre collegato al turismo, infatti l'Enit esce come come associazione sport e turismo. Allora, la Zannella Basket quest'anno sta facendo un campionato eccezionale, con i miei ragazzi che veramente stanno dominando, specie quando sono dentro quel rettangolo, in ogni parte in ogni parte della Sicilia dove noi andiamo a giocare. Io ripeto, non ho fatto una squadra per vincere il campionato. Quando siamo partiti quest'anno ci siamo trovati primi in classifica e abbiamo messo sotto l'Aquila e il Mazzara, che sono due armate, però il cuore dei miei ragazzi è grande e non lo batte nessuno. E noi abbiamo perso a Mazzara, l'unica sconfitta fino ad oggi, una sconfitta che ci meritiamo tutto, perché abbiamo giocato al 30% delle nostre possibilità, quindi se giocavamo al 50% il Mazzara usciva sconfitto in casa sua. E non dico che c'è stato un arbitraggio scandaloso, mi interessa, noi abbiamo preso, abbiamo accettato la sconfitta, ma la cosa bella è che i miei ragazzi negli spogliatoi li ho visti più uniti e con una carica maggiore rispetto a quella che avevano prima della partita. Il Green Basket non è una squadra di solo giovani, perché giocano due veterani che hanno giocato in serie superiori, è il pivot Trevisano e l'ala Provenzano. È una bella squadra. Noi siamo andati a vincere a Palermo, domenica verranno a giocare qua. Noi, c'è Carlos che è assente perché è infortunato, i ragazzi si stanno allenando bene, i tifosi sono sempre là ad aiutarci, a darci una mano, e vedremo quello che succede. Sì, abbiamo fatto una sconfitta, forse ne faremo altre, ma non è che noi possiamo fare un campionato senza una sconfitta, specie un campionato del genere. Per me la più grande vittoria è che in tutta la Sicilia, e a Mazzara me l'hanno confermato, si parla della nostra squadra, della nostra società, una mosca bianca. Una società che è cresciuta con tutti i ragazzi di Cefalù, quest'anno abbiamo messo l'innesto di Willy, e che abbiamo dimostrato che con pochi soldi, tra virgolette, si possono fare tante cose. Quindi significa che si è lavorato bene. Abbiamo un grande settore giovanile che stiamo cominciando a vincere contro settori giovanili molto, ma molto più quotati rispetto a noi, guidato bene da Rosponi e da Piero Morici, con i nostri tecnici. E che dire di più? Più di questo non possiamo dare. Domenica vedremo. Sì, intanto è doveroso ricordare che questa sera alle 20 ci sarà la diretta del Consiglio Comunale in video. Bella su crmradio.it e in radio sui 101,4 MHz, magari con un orecchio alla radiolina per Milan e Barcellona, per i tifosi milanisti, e con lo sguardo al PC o all'altro orecchio al Consiglio Comunale, perché davvero si dovrebbe discutere di argomenti molto importanti. Ritorniamo alla BIT di Milano. Non possiamo nascondere che c'è stata una corrispondenza molto fitta, uno scambio di battute su alcuni itinerari che di fatto hanno escluso Cefalù dagli itinerari cosiddetti per l'anno della fede, quindi tre itinerari nella rivista dell'Opera Pontificia Pellegrinaggi, che mette in copertina la Sicilia col Cristo Pantocratore di Cefalù, ma dentro nessuna traccia della città. Ormai il danno, come si suol dire, è fatto, diciamo, nella rivista è chiaro che non c'è. Abbiamo letto che c'è stato un incontro tra il sindaco e il presidente dell'Opera Pellegrinaggi, e si è detto che probabilmente nelle prossime ristampe, o magari con nuovi fascicoli o opuscoli, Cefalù potrebbe senz'altro entrare. Come dicevi tu, basta le critiche, bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare. Tu addirittura proponi già degli itinerari, mi è sembrato di capire. Sì, guarda, io a Milano ho detto il danno è fatto, non so chi l'ha causato, non ne ho la più pallida idea, non mi interessa, io non entro in politica, ma che sia un discorso politico, su questo non ci piove. Io dico questo: loro hanno fatto un itinerario, benissimo. Io non capisco perché non possiamo farci noi un itinerario nostro, visto che abbiamo il Cristo Pantocratore, abbiamo il santuario e sulle Madonie ci sono delle chiese che meritano veramente di essere visitati. Abbiamo un parco delle Madonie che è qualcosa di unico al mondo. Esatto, quindi facciamoci. Io a Milano stesso sono stato avallato dal sindaco di Grattere, avvocato Muffoletto, ciò mi onora anche per le parole che ha detto. Io dico: facciamoci un nostro itinerario. Noi abbiamo la possibilità di pubblicizzarlo, lo mettiamo dentro la rivista Se Accomodasse, che sarà stampata in grande tiratura, e qual è il problema? Invece di continuare a polemizzare, anche stamattina ho visto pure la polemica dello Schebert, che non è stato invitato, ma tutte queste polemiche stanno venendo ora, ma lo Schebert una mezza telefonata non la poteva fare e dire: noi siamo disponibili, che ci voleva? Dico, può anche aver sbagliato il sindaco, attenzione, nessuno sta dicendo, ma io penso che non esiste solo lo Sherbet, dovevamo invitare tante altre associazioni che meritavano di essere presenti, però io non capisco perché bisogna aspettare che si faccia la manifestazione e poi si chiama, perché non mi hai chiamato, ma perché non chiamavano prima? E sarebbe stato ben accetto, anzi sarebbe stato veramente mettere un bancone del gelato e dare dimostrazione, va bene, che avevamo anche questa manifestazione. Sempre criticare, ora pure da Palermo arrivano le critiche, cioè basta. Allora, tu dici giustamente basta le critiche. Abbiamo parlato delle Madonie, abbiamo visto nelle immagini trasmesse dall'editore Angelo Arduino, le immagini di qualche minuto fa, ti abbiamo visto a colloquio col sindaco di Grattere, che saluto calorosamente. Il sindaco di Grattere quest'anno, non so se i radioascoltatori lo sanno, conclude il suo mandato, perché ha fatto il suo secondo mandato, quindi a Grattere si voterà, e l'avvocato Giuseppe Muffoletto non potrà essere ricandidato a sindaco. Di Gianni fantastici a Grattere. Ecco, tu come l'hai visto all'avvocato Muffoletto, sindaco di Grattere? No, guarda, io l'avvocato Muffoletto lo conosco da sempre, lo stimo, lo rispetto per quello che fa, è una persona molto pacata, anche lui è una persona che non accetta le critiche, ma è una persona che vuole sempre fare. Che dire, ha accettato il mio progetto Se Accomodasse, gli è piaciuto tantissimo, anzi quasi quasi mi rimproverava perché dice: Totò, non me l'hai detto, avvocato, ancora non sono partito, e sono io onorato di averlo dentro la mia rivista. Vorrei che tante persone fossero come lui, poco, zero critiche e molto fare. Io critico molto, purtroppo, ahimè, lo devo dire, il Parco delle Madonie, il distretto turistico, perché veramente non trovo nessuna forma di unione, non trovano nessuna forma di unione per rilanciare questo territorio di 100.000 abitanti, dove veramente c'è mare e monti, dove questo territorio tutto unito, tutti uniti, veramente veramente potrebbe spopolare. Guarda, io ti dico una cosa: se io sento una dichiarazione, se io metto fuori una dichiarazione che ha fatto il sindaco di Castelbuono Cicero, il quale diceva l'anno scorso che non c'era bisogno che il Parco delle Madonie andasse alla BIT di Milano, e poi lui con Castelbuono è andato a Lugano, alla fiera di Lugano, io gli ho risposto che è fuori strada totalmente. Allora, le Marche, tutti i parchi che erano presenti alla BIT di Milano, che cosa sono andato a fare alla BIT di Milano? Io penso che forse dobbiamo mettere un po' da parte un po' di presunzione, essere un pochettino più umili, va bene, e lavorare di più per questo territorio, perché veramente dopo quello che ho visto quest'anno alla BIT, veramente qua siamo all'età della pietra ancora. Sappiamo solo, ripeto, solo criticare, ma non ci sono manager capaci di rilanciare questo territorio. Anzi, i manager ci sono capaci di lanciare questo territorio, forse magari non sono in politica e quindi sono messe da parte. Ecco, intanto scorrono ancora le immagini che vedono inquadrate il sindaco di Cefalù e il sindaco di Grattere, ma vedo anche alle spalle il ragioniere Pino Curcio, che è il presidente della Proloco di Grattere, che con un team di ragazzi straordinario, lo sottolineo, vero, ogni anno organizza delle manifestazioni bellissime, tipo la vecchia, la sagra della Vassedda Fritta, ma anche l'estate gratterese, davvero con fondi quasi nulla, ma garantisce agli abitanti e agli ospiti di Grattere di vivere un'estate davvero divertente e rilassante, perché lo sappiamo tutti, a Grattere villeggiano tantissimi turisti del nord, anche molto noti, anche della nostra regione, e quindi riescono sempre a garantire con il loro lavoro gratuito e di volontariato una bellissima estate. Un saluto quindi al presidente della Proloco Curcio, ma rinnoviamo i nostri saluti al sindaco di Grattere, che vogliamo invitare nei nostri studi nelle prossime trasmissioni. Allora, per concludere, editore Marsala, si parla anche dell'apertura di un nuovo punto fisico dove svolgerai le attività e metterai in promozione i tuoi prodotti. Di cosa si tratta? Sì, sto aprendo un centro culturale vicino al passaggio a livello. Si chiamerà proprio Saccomodasse Club, che Saccomodasse è un brand. Dove sarà un centro esposizioni, un parco giochi per bambini, e poi si vedrà. È un impegno non indifferente, ma fa parte del mio gruppo, fa parte del mio brand, e lo porterò avanti, perché mi piace fare le cose, ripeto, senza chiedere niente a nessuno. Lì si presenteranno libri, mostre e tante altre cose che poi in seguito dirò. Spero di aprirlo fra 2 o 3 mesi, ci stiamo lavorando. Allora, la trasmissione volge a termine, ma prima dei saluti voglio ricordare l'appuntamento di questa sera alle 20 con la radiocronaca diretta del Consiglio Comunale, che sarà possibile anche seguire in streaming sul sito CRM Happy Radio. Naturalmente alla regia, come in questo minuto, ci sarà l'editore Angelo Arduino, ci saranno anche i nostri inviati e commentatori politici. Ringraziamo Salvatore Marsala per essere stato ai nostri studi, ma voglio ringraziare anche Nunzio Turdo, che è qui nei nostri studi e che sarà presente su Rai 3 durante la trasmissione Mediterraneo con i suoi scatti fantastici. Prossimamente, ancora ci dice, non si sa la data precisa, ma è già stato selezionato per proporre le sue immagini di Cefalù, che andranno in tutto il mondo, perché il programma Mediterraneo è un programma che realizzato in collaborazione con le maggiori TV dell'area mediterranea, che trasmettono anche in arabo e anche nelle lingue mediterranee occidentali. E questo è davvero tutto. Un grazie a voi per essere stati presenti ai nostri studi, un grazie ai nostri radioascoltatori, un grazie ad Angelo Arduino in regia. Buona giornata a tutti. Grazie a voi. Avete ascoltato Note, a cura di Giacomo Sapienza.